Hadith numero 15 da Abu Huraira, che Allah si compiaccia di lui, è stato trasmesso che l'apostolo di Allah disse: chi crede in Allah e nell'ultimo giorno o dica bene oppure stia zitto, chi crede in Allah e nell'ultimo giorno sia generoso con il suo vicino, chi crede in Allah e nell'ultimo giorno sia generoso con l'ospite. Lo hanno riferito l'imam al-Bukhari e l'imam Muslim.